all'istinto, come un animale ferito e impaurito, che fugge già terrorizzato. Il fuoco che mi sta inseguendo è troppo caldo, la strada è troppo lunga, io devo andare lontano. Vedo l'asfalto sotto le ruote, mi brucia nero, aiuto, penso a qualcosa che mi sta vicino, ma devo resistere, non riesco a piangere, né a ridere, né esistere, è troppo difficile vivere. Penso alle perdite, alle vincite, alle prime, alle ultime, alle massime, le decisioni drastiche, i momenti speciali, in particolare i primi amori, la scuola, gli odori, le liti, le amicizie, tutto perso, adesso non si può tornare indietro. Finite tutte le recite per questo secolo, ne riparliamo al prossimo, per te io vorrei il massimo. E chi ti ci ha strappato da sto mondo sudicio, ricco fuori e dentro misero, povero di spirito, che soffrirà le pene dell'inferno nel suo animo, se lo possiede un animo. Quando arriverà il momento glielo auguro e non lo commisero. Nella bacilli dei persili si confondono, dentro me sento che rabbia e odio crescono, perché ha perso troppe albe, perché ha preso una mia parte senza darmi nulla in cambio. Nella bacilli dei pensieri si confondono, dentro me sento che rabbia e odio crescono, perché ha perso troppe albe, perché ha preso una mia parte senza darmi nulla in cambio. Voglio il resto, voglio la tua anima, la mangerò con calma, se inizio questa notte finirò per l'alba. Nebbia oscura come l'eclissi di luna su nuoro, rabbia nel mio corpo allo stato brado, sto immerso a bagno nel dolore, non è facile morire, impossibile convivere con te, sento i miei denti stridere come i freni di vecchie automobili coperte dalla ruggine. Immagino la faccia di Chialema occupata a uccidere. Io per te desidero qualcosa di più di una semplice vendetta. Natura morta nel mio ego dipingo tristezza, la mia stranezza come garanzia di serietà. Mi chiuso nel mio inferno, tornerò dall'aldilà. Le voci che mi stressano mi ossessionano da dentro, il fuoco che mi ardeva in petto mi spento da tempo. Vago in un limbo e sono perso tra sospiri e lacrime, aspetto solo che finisca il momento difficile. A tempi duri, rime dure, vedo solo nero, lato nascosto di me stessa avvolto nel mistero. Così sarà per sempre sino alla fine dei giorni, perché ho fatto l'abitudine a spargere lacrime, ispirato dalla notte e dall'odio che provo. Custode di me stessa, guardia del mio stesso corpo. Guardia del mio stesso corpo. Nella bacilli dei pensieri si confondono, dentro me sento che rabbia e odio crescono, perché ha perso troppe albe, perché ha preso una mia parte senza darmi nulla in cambio. Nella bacilli dei pensieri si confondono, dentro me sento che rabbia e odio crescono, perché ha perso troppe albe, perché ha preso una mia parte senza darmi nulla in cambio. Da tutto ciò che mi circonda come pazzo furioso, mi segue qualcosa, non riesco a capire cos'è. Vorrei essere un uccello per vedere tutto dall'alto, capire cosa mi succede intorno, vedo buio tutto nero, la rabbia mi acceca. Provo odio per tutto, per tutti i miei nemici che mi criticano, mi confondono i pensieri nella testa mia, la nostalgia. Gli anni passati non li ho dimenticati come ero prima, sono adesso, non posso scordare gli amici miei simili che mi hanno aiutato, portato fino a qui. E adesso solo vado, non mi ferma nessuno, perché nemmeno incontrastato nel mio mondo astratto, sfigato, odiato da molti, non tutti, c'è chi sta con me e mi considera un'altra stella che non è caduta. Nell'alba geli dei pensieri si confondono, dentro me sento che rabbia e odio crescono, perché ha perso troppe albe, perché ha preso una mia parte senza darmi nulla in cambio. Nell'alba geli dei pensieri si confondono, dentro me sento che rabbia e odio crescono, perché ha perso troppe albe, perché ha preso una mia parte senza darmi nulla in cambio. La mia mente, il buio che mi scorre dentro, con un pennello d'odio dipinge il dolore in volto, solo astento scorgano, le mie destra ripano, mentre rabbia e paura dentro me si intrecciano, dentro mi ardono, mi scottano, bruciano l'animo. Scintille di pazzia, schegge impazzite scoppiano, crescono le fiamme biforcute del mio spirito, marchiate a fuoco dall'interno con un nero lucido, rinchiuse e liberi in una tempesta di sabbia, mesaurita la clessidra che il mio tempo segna, sabbia sopra sabbia, cenere sopra la cenere, i piedi sopra il mondo su cui sono costretta a vivere, cavallo dal colore cupo e dalla razza pura, si vira sul vento freddo della sera, l'aria dell'alba che si innalza e che il mio sangue gela, il cielo rischiarato da una stella, dalla luce nera, lascia che accada, da solo aspetterò il mio giorno, cerco una piglio, un cappio a cui aggrapparmi per salvarmi dal naufragio, dalla spelonca sensazione di un pazzo, mi resta poche lacrime, non le sprecherò adesso, non le sprecherò adesso, adesso. Nella bacilli dei pensieri si confondono, dentro me sento che rabbia e odio crescono, perché ha perso troppe albe, perché ha preso una mia parte senza darmi nulla in cambio. Nella bacilli dei pensieri si confondono, dentro me sento che rabbia e odio crescono, perché ha perso troppe albe, perché ha preso una mia parte senza darmi nulla in cambio. Perché ha preso una mia parte senza darmi nulla in cambio.